sostengo, quello che non lo so, boh, io so più cosa devo fare a un certo punto. Antonio, sei quasi perfetto, la modulazione è quasi perfetta, devi abbassare la trappola e tu. Guarda, tieni presente che il microfono non è il suo, già lo sai anche tu, quindi a un certo punto. Quindi, dimmi tu, lo faccia, abbassa per la pena. Eccolo qua, passa per la pena, pena. Ok? Guarda un po' tu. Non toccare più niente, è perfetto. Boh, lascia così, fermo, non tocca niente. Sicuro? Non è che poi mi dice dopo 10 minuti, cazzo, Sicuro? No, Antonio, dillo tu. È sicuro, sicuro Antonio. In FM purtroppo deve andare un po' più tranquilla la cosa. Poi in AM i parametri sono un po' diversi. Adesso l'apparecchio che non è uso di quegli apparecchi, ma era così era. Appunto, siccome i parametri in FM sono, cioè dall'FM in AM sono totalmente diversi, quindi a un certo punto io non so più come comportarmi a un certo punto, hai capito? Il discorso è quello. Cioè uno dice una cosa, uno dice un'altra, a un certo punto non so più che credere la verità. Tu devi credere a chi ti vuole bene, tu devi credere a chi ti dà le comparazioni giuste, ma secondo te io che cosa ne ho a prendere a farti uscire di testa? Antonè, a me non mi interessa, se poi vuoi uscire male, esci male, a me non mi interessa niente, io non, a me non mi paga nessuno e non... non ho niente di guadagnato nel farti uscire bene o farti uscire male. Io ti ascolto lo stesso, mi prendo, ti attenuo, metto qualche filtro e ti attenuo e ti ascolto. Però è per fare radio in modo giusto, Antone. Se poi gli altri ti ascoltano con l'autoparlante del baracchino, cioè con l'autoparlante delle bambole, a noi, cioè a me non me ne frega niente, io ti voglio far uscire bene. E Tino è lo stesso, Antonio è lo stesso, Franco è lo stesso, e poi che gli altri facciano quello che vogliono, io cosa vuoi che ti dica? Accetta il buon senso, no, non è che ti devi arrabbiare perché vogliamo solo prendere e farti migliorare la modulazione. È così, purtroppo lo devi accettare, poi se ti va bene come le regolazioni tue e non ti senti, pace all'anima tua, pace all'anima tua Antone, cosa vuoi che ti dica? Perché tu ti devi prendere un commutatore d'antenna, no? Un commutatore d'antenna e fai due radio, un'antenna, il input te lo tieni regolato in FM e poi ti prendi un baracchino con un bel lineare da 1 kW e ti fai per la M, basta, finito lì. Dai, riprendo subito, vai ti. Perché bisogna ricordarsi come mettere le cose. Se tu ti ricordi come devi mettere le cose non ci sono problemi, sono finiti i discorsi, capito? Se tu ti rammenti cosa devi fare. Io quando usavo quelle radio lì mi ricordavo tutto e mi ricordavo come dovevo mettere il mic gain, quando cambiavo e cosa, quindi non, problemi non ce n'erano, capito? Adesso soprattutto che sono un po' di anni che non ne uso, cioè se me la vai a vedere me lo ricordo subito come devo agire, è così . Antone, comunque adesso vai bene, parlami però. Antone, io o l'altro? No, tu Antonello ci sei solo tu, mi. Vabbè, Pomponio, così almeno non bisticciamo. Ho capito, dimmi tutto, non c'è problema, ho capito ciò che mi ha detto lui, non ti preoccupare. Ma non tocca niente, perché va bene ora così, se no già lo sai tu che esci tutto impastato, tutto messo male. Questa è una bella modulazione ora, ti capiscono tutti, sei molto chiaro, la radio è forte, ma è comprensibile e sei chiaro. Vabbè, sembra che mi stai dicendo che tu... vabbè, non voglio dire che... fregata. A un certo punto, una persona... vabbè, niente, a posto. La guarda Antonella, ti faccio un esempio, eh. Adesso tu come mi ascolti abbastanza chiaro. Adesso io metto il processore, guarda. Aspetta, eh. Adesso ho messo il processore. Ha cambiato la modulazione, si è sporcata perché è più forte, giustamente. Adesso la tolgo, guarda, eh. Eccola qua, adesso l'ho tolta. Mi senti meglio? Sì, me lo vedrai l'apparecchio, sì. No, mi senti meglio, nel senso che ha cambiato la modulazione. Ecco, noi siamo arrivati a un punto di farti uscire un pochino più pulito, perché in FM la modulazione cambia. Ho capito, ma io ti ho risposto, ma non è che c'è qualche regalo come uscire così in cambio di quello che ho io, hai capito tu? Sì? E cosa ti posso regalare io? Io c'ho solo questa radio. Non tu, non sai chi... Amico mio, io le cose che prendo da lui io le pago, non è che regalo, non me le regala a me. Lo so, ma nella spintina, piccolina, piccolina, là, a certo punto... cosa vuoi che dica? Oh, spintina, piccolina, piccolina, eh? Io ti posso dare forse un 747 se non sono attaccato. Quello che non me ne frega niente. Una spinta, hai capito? Una spintina, piccolina, piccolina, piccolina, piano piano. Ci sono quei travoni, per Daniele. un uso lamellare, buono, ma cos'è il genere? Tagli la scava, colpo da scavatore. Vieni in cantiere da me, già lo sai dove sono, Antone. Ti faccio un buco. E quindi... hai capito? Ti riservo un buco, guarda, vedrai che non te lo tocca nessuno quel buco. Sì, Antonio. Allora, buona, che c'ha spintina. E lo sai che c'ha spintina? Legamelo, Antonio. Beh, Antonio. E adesso mi bevo un digestivo. Una bella grappetta, dai. Mi ho preso una grappa da un amico che ha fatto lui. Ed è amabile, è amabile. Insomma, come digestivo, e poi do da mangiare ai cani, dopodiché vediamo cosa fare, dai. Sì, giusto per adeguarti. Maledetto. Comunque, guarda che l'apparato mio è stato chiesto dall'escopo, se già lo sai, sì. No, per farlo, più che altro, non per me, no. Per quel imbecille che hai parlato poco fa. Quindi a un certo punto, il 140 che ho io, è una persona, cioè, in pratica è una parte serio, no? Con chi ce l'hai, Antone? Con quello, vabbè. Già ho capito io, fregate. Ma vabbè. Oi oi. Vabbè, vabbè. Comunque, Antone. A futtidino. Già va bene così la radio. Già va bene così la radio. Comunque sia, no. Non me la fotte nulla. A un certo punto lo metto 23 e 140 va a far culo. Mi mettere in vendita, E quindi Antu, quel portatile esce veramente bene comunque. Ma cosa c'è? L'alimentatore in camera ti è portato? Quell'alimentatore già direttamente con l'accendisigari è piccolo. Praticamente mi ti mando la fotografia. È un alimentatore di, come si dice, tipo ghisi della Euro, di quelli Coleman, ghisi ma per alimentare i frigoriferi da campeggio. No, ho capito, Sì, ma già vanno bene. No, già esce bene quella radio. Esce bene quel portatile. Tu pensa, io portatile per la 27 no, vabbè, non lo uso perché non me ne frega niente. Però non ne ho neanche uno, mai avuto uno, mai. E avevo degli Intec, avevo tre Intec per la 45 mega, 43, 45 buco. E uno era tipo veicolare sicuramente, perché toglievi la batteria e andava, c'erano due cavi, uno andava, uno era l'alimentazione che andava all'accendisigari della macchina, e uno aveva il PL femmina per agganciare l'antenna esterna, e uscivano con 5 watt, però avevano una radio bella. E vabbè, perché poco fa mi hai chiesto se stavo uscendo a Grazioli, hai notato la differenza di segnale? Già me ne sono accorto. Questa qua è come quella che ho dato a Antonello, però a differenza che quella di Antonello è mezz'onda, e questa qua è una 5 ottavi. Questa qua è una 5 ottavi. È sempre su un traliccio da 4 metri. Qui ha uno sprungamento dietro, dai, giusto per arrivare alla mezz'onda, e niente, no, la Grazioli ce l'ho collegata diciamo al 450, al 450 all'ICOM con un commutatore d'antenna, e va bene così, e va bene così. Tanto io, diciamo, ho preso il Superstar, questa che sto usando adesso, perché non avevo baracchini, quindi l'ho preso a Cagliari, questo Superstar è originale, diciamo che gli ho fatto qualche cosa io, ma niente di che, giusto una... diciamo l'interruttore per eliminare il beep, niente di che. Ce l'ho abbinato a un'altra cosa, e poi ce l'ho abbinato a questo amplificatore tramite il TM1000, che posso fare una radio, due antenne e ciccio. E niente, però domani vedo di uscire con l'altra antenna, eh. Ogni tanto anche loro vanno fatte andare, va fatto girare tutto il circuito di alimentazione, e già li fa bene. Già ti ho mandato la fotografia, ti ho mandato. Sì, ma guarda, molti dicono a 5 ottavi cambia, ma cosa giamba? Cosa cambia? Un punto cambia, un punto S. Sì, te ne accorgi perché magari ne abizzi, però non è che cambi più di tanto, no, dalla 5 ottavi alla mezz'onda. Cioè, io per esempio da Antonello non mi sono accorto una grande differenza, assolutamente. E la mezz'onda già è più performante in DX, diciamo in lunga gittata, però dipende anche da tanti fattori, perché è inutile che tu hai una mezz'onda e poi stai usando, dipende da tante cose, ho visto anche gente che, comunque. No, la gratitudine non ce l'ho collegata, diciamo, non in questa linea, per farti sentire la gratitudine con l'altra linea, sempre con questa radio devo eliminare un PL che adesso non ho voglia di prendere e toglierlo. Domani mattina prendo, me lo faccio un attimino e sono 10 minuti di coso e l'aggancio al commutatore. Me l'aggancio al commutatore. Sono anche perché poi devi adattare, devi fare. No, comunque dai. Quando ho preso questo amplificatore, mi è arrivato da Continente. L'ho usato un giorno in trasmissione e sono partiti i condensatori. Aveva i propri condensatori originali, mi ha dato una mezza truffa quello che me l'ha venduto e sapeva che c'era un condensatore da cambiare. Niente, io sono stato anche cosa a non aprirlo, a fare, ma comunque l'ho pagato 70 euro, quindi niente di che. E l'altro giorno, quando è avanti ieri, ho preso, gli ho cambiato i condensatori e li ho messi un po' più grandi, e ciccia. Condensatori, sono questi qua, sono condensatori hi-fi, sono condensatori di un amplificatore hi-fi dismesso, e dovrebbero andare bene. Sono un po' più grandi, quelli suoi erano 100 microfarad, questi qua sono 200 microfarad, 500 volt, quelli erano 100 microfarad, 120 microfarad, 450 volt. Se gli adatto, vedi quanto sono in trasmissione, quindi le stazionarie, per tutto l'ago non si muove con quell'antenna lì. Se gli faccio una modifica per i 40 volt, posso alimentare anche una PL 519, mi dà 100-120 watt, ma non mi interessa, lo tengo così, è riposato. Sì, non lo so, è molto, no, già va bene, già me ne sono accorto perché qualche punto in meno c'è, anche se sono col portatile, me ne avviso, perché c'è lo smitter questo portatile. Me ne accorgo chi va di meno, chi va di più, capito? Già va bene lo stesso. Anche io non c'ho una 5 ottavi sul tetto, c'ho una Ringo e funziona bene, è stata modificata bene, funziona bene. Però il vecchio modello, il nuovo, l'ho tolto subito, mi ha dato subito problemi. Il vecchio modello, quello che c'era stasera di vecchio, e funziona bene. Poi più in là metterò un'antenna come si deve, però questa mi soddisfa, funziona bene. Sì, e lascia questa qua, finché funziona lascia questa qua, non stare lì a prendere a cambiare nulla, quando è prenditi io, qua o Mantova o Graziuli. Prendi quelle due e sei a posto. Ma non per il guadagno, per le cose, perché la notte sei più tranquillo, mi caccia, se c'è vento dici, oh, porca miseria, ho un'antenna robusta e ciccia, non devi stare di lì a tirarla alle lunghe, devo scenderla per controllarla, no. La Graziuli è fatta tutta in acciaio e in alluminio. La Mantova gli fai qualche modifica e te la porti come vuoi tu. E niente, ma va bene così. Oioia. Mezz'onda 5 ottavi, alla fine poi ho visto l'altro giorno. Hai collegato il Belgio con un portatile 30 watt. Quindi non. sono solo soldi presi e buttati, secondo me. Vediamo se è rientrato Tino e ci dirà qualcosa anche lui, che ci stava facendo da ponte, l'altro giorno, quindi Ponte Radio sulla 27, avanti. Sì, il ponte di Baracca, vabbè, stavo utilizzando l'altra radio, ma già va bene, dai. Quando c'è la propagazione non c'è lineare che tenga, capì? Tu considera che io l'anno scorso ho fatto un collegamento in Italia, per l'Italia, ti dico anche a Benevento, stavo usando il 450, quindi ero in uniform Serra Bravo, ero con 100 watt, arrivavo 9:15, 9:20, il radio mi ha detto che la radio era uno spettacolo, vabbè, di lì non abbiamo nessun dubbio. Ho cambiato e ho messo, Tino, quel Nevada, quel pacchettino di sigarette che ho io in garage, con il 747, arrivavo segnale 9, in AM, segnale 9 in AM con 40 watt, mi ha detto che la radio era stupenda in propagazione, quando c'è propagazione, quindi non alla fine sì, se vuoi, io dico sempre una cosa, il lineare a me il lineare in stazione riempie l'occhio, in stazione il lineare è bello perché riempie l'occhio e hai quel senso di controllo di tutto, perché dici porca miseria, sparo un kilowatt e mezzo e so cosa sto facendo, antenna permettente. Però quando c'è propagazione si fanno anche collegamenti con 5 watt, fai, e quelle sono le soddisfazioni migliori. Vai, Tino, ripeti. È risaputo che insomma quando c'è propagazione basta un baracchino normale, un baracchino di quelli di macchina, un veicolare, riesce a agganciare lo stesso. Vabbè, però se hai la possibilità di mettere una marcia in più ti darà più soddisfazione, perché con 5 watt, per dire, arrivi Santiago 7, con l'altro arrivi 9:20, è una cosa, una marcia in più. Antonello, vediamo un pochino Antonello, dai. Aspetta un attimo, scusa Antonello, stavo modulando in due, posso riprendere? Sì. L'altra sera stavo facendo ascolto in 7106 in 40 metri e a un certo punto ho sentito Italia-Sardegna 0, Sierra Whisky, ho detto Millo, Sassari in trasmissione. E c'erano dei corrispondenti, erano in Alta Italia, e la verità all'inizio era un po' così, e infatti ho detto guarda, non riusciamo a copiarti bene, e ho detto un attimo che riprendo subito. dopo un po' è entrato, ho detto sì, riprende Italia Sardegna 0, Sierra Whisky dalla stazione Master. Arrivava al continente 9:30 e gli stava spaccando il radio. Per forza, che se aveva la cubica e più 5 kilowatt in direzione, cosa vuoi di più? Esatto. Perché poi no, quando hanno visto sul loro, diciamo, sulla loro pagina dei radioamatori, hanno detto caspita che attrezzatura, hanno fatto sì, poi stavano parlando, stavano facendo, gli hanno fatto tutti i complimenti, hanno detto caspita ragazzi, che modulazione, che roba. E niente. Infatti ho detto, ecco la Sardegna che domina, la Sardegna vera, la Sardegna che domina anche in questa passione, gli hanno fatto tantissimi complimenti, te lo può dire, perché poi ha dovuto mollare per questioni di lavoro, però arrivava fortissimo, cioè 9.30 e a quanto ho capito non è che la propagazione era tanto favorevole, quindi è stato non neanche orgoglio, però ha fatto piacere quando prendi e dicono caspita è dalla Sardegna, queste cose fa anche piacere. No, vabbè, ma tu devi pensare a una cosa, capito? Che qua è forse è l'unico che ha tutte quelle cose lì, tradici da 25 metri con cubica mega galattica e 5 kW di portata. Diciamo la verità che credo che sia l'unico qua in Sardegna, No, in una cosa ti devo contraddire, se voglio io arrivo più in alto di lui con i tralicci. Vabbè, ma come antenne no, a futti dimmi. Ma con i tralicci sì, però, con i tralicci posso arrivare, Anto, secondo te quanto posso arrivare con i tralicci? Ma anche se arrivi 30 metri, capito? La sostanza non cambia. Oh, ma lo so. Io ma ci mancherebbe. No, ti era giusto per ridere, no? E caspita, non è che ti puoi mettere a paragoni del genere. Ho detto una cosa a tralicci. Sono a tralicci, però, e basta. Fermata da pick-up. No, dai, già fatto, ma si è sentito, cioè dal primo passaggio che ha fatto, poi dal secondo, ho detto che sono con la stazione master, ho detto Milomi, fatta. E ho guardato i segnali qua, era quasi fondo scala, Sì. Qua arrivava 9.45, 9.50 con l'ICOM, e con questo non sgarri. Era fortissimo, ma proprio fortissimo, una radio spettacolare come piace a me, era top, no, non ce n'è. Sì, ma vabbè, lui qua è così, non ce n'è. C'è gente che è attrezzata, per carità, è attrezzata con delle belle radio, però non ai suoi livelli, hai capito? Cioè io li conosco tutti, dal primo all'ultimo. Ultimamente ho conosciuto anche gente di Cagliari, che lo stesso è attrezzata, ma abbassano le orecchie. Guarda, c'è un altro attrezzato benino, ma non quanto lui. No, vabbè, io, a prescindere che io non lo conosco, attenzione, io non lo conosco, e proprio di persona lo conosco, però cioè, si sa che è una persona in quest'ambito che è forte, quindi dai, quando c'è la Sardegna, in qualsiasi passione, in qualsiasi settore, che c'è la Sardegna che il domina, ognuno è tifoso della propria regione e della propria provincia, cioè quando Sassari dice caspita questo qua è una bandiera, capito? È una bandiera di orgoglio in questo, io per riguardo in questo settore, poi noi abbiamo avuto bandiere di orgoglio nel settore del calcio, dell'atletica, però in questo settore è number one. Sì, sì, sì, e poi è un buon finanziatore, quindi a quanto so io, per i punti radio e quant'altro, eh? Mi immagino, e dai, viva le persone che finanziano tutte le loro passioni, che sia dalla radio, che sia al calcio, che sia alla pesca, che sia in tutto. Viva e beato chi può, anche economicamente, che possa fare questo tipo e altri tipi di che possano svolgere al meglio la loro passione. No, mi ha fatto, quando l'ho sentito, dai, mi ha fatto piacere, perché ho detto caspita, cioè da Sassari arriva a avere segnaloni del genere, avere una persona, e fa piacere, perché non bisogna essere invidiosi delle cose, ma quello è, no, a me ha fatto tanto piacere, anche non conoscendo, perché non, cioè, fisicamente non personalmente io non ho mai conosciuto questa persona, però ripeto, è sempre una soddisfazione. E vai Tino e rilancia per Antonio, per Antonello, per più Vito. Così. No vabbè, ma io lo conosco oramai da tanti anni, è sempre stato non la classica persona, è sempre umile, però giustamente c'è sta. Va bene. Antonè, io ti ho chiamato, non so se tu mi hai sentito, però dai, mando il mic avanti a te, vediamo un pochino se ci si. Vai Antonello, Pomponio, vai. Non c'è, si è addormentato, vabbè. Vai Antonio. Capo, io mi ricordo una cosa che ho sentito, mi pare 3-4 volte. 6 volte l'avrò sentito qua. E mi ricordo una volta in particolare che ho usato una radio, aveva una modulazione che era una cosa spettacolare, era proprio una modulazione bellissima. Sì, ma chi? Quella persona lì, l'avevo sentito in 27, 4-5 volte. No, in 27 fa cagare. Una volta aveva usato una radio che era spettacolare. Non so se tu lo conosci, in 27 fa cagare. Quella volta lì si sentiva bene, una radio a valvole. Ah, lascia così, no. Stiamo dicendo, non stiamo parlando della stessa persona, Antu, che lui non è a radio a valvole, lui ha tutt'altro tipo di strumentazione, di radio, radio ultimo grido, quindi le valvole lascia perdere. Ma sto parlando di parecchio tempo fa, Sì, ma tu mi devi dire di chi stai parlando, però. Ma stavo parlando di cosa, di... Non voglio dire i nomi in radio. No, lo puoi dire, te lo sto dicendo io, lo puoi dire. Non stavate parlando di Walter? Walter radio a valvole non ne ha. Vabbè, comunque ha fatto sta che lui aveva usato un tipo di radio che si sentiva benissimo. Ma non lo so. Tanti anni fa sì, entrava come diaboliche, giustamente, come, perché lui ha iniziato con una, come CB, giustamente. Dopodiché ha dato l'esame e quant'altro, quindi è andato oltre, però voglio dire, non ho radio a valvole, non ho, io non ne ho conosciuto, io l'ho conosciuto tanti anni, sinceramente non ne ho conosciuto radio a valvole, o perlomeno se le ho utilizzate era una linea Drake che aveva, ma o ce l'ha ancora, No, ce l'ha ancora, però non credo che sia in uso. Oh, comunque modulava da una casa che c'era qua vicino. Vicino dove? Su, in via... Come cavolo si chiama quella via là? Via... Adesso non mi viene il nome. Qui su c'è la variante N, ti ricordi? Tassa di due. Ce l'hai? Tassa di due c'è la variante N, ce l'aveva. No. Zona Baldetta, alta magari, c'era una sola antenna. Non so quanto possa aver modulato lì, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Non so neanche che stazione aveva lì. Se non sbaglio c'è ancora l'antenna, ma non c'è nessuno che la stia adoperando. No, io gira sopra la tassa di due, come ti si chiama, cazzo non mi viene la via adesso. Comunque c'era un appartamento lì, c'era le antenne, un po' di tempo fa sto parlando. Lei Anto, un'antenna, non le antenne, un'antenna. Sì, e poi vabbè l'ha dato un amico in comune, quindi finito lì. Lui ha due stazioni ben composte qua a Sassari, poi vabbè fuori non mi metto a dire altro, fuori ne ha altre però. Ma voglio dire, qua ne ha due buone, che una è Ripunti e una è appena più avanti. La primaria è quella più avanti. Sì, già l'ho visto già il traliccio. Non so dove stia dicendo, però. Ripunti. No, quello è un traliccio del cacchio, quello è. Quello è una stupidaggine. È un di raro che su manno, non vedo. Forse ha già compreso. Ma... Vabbè, tanto non sono cose che devo dire in radio. Quello che si vede, quello che non si vede non bisogna dire. Sì, ma già ho capito, adesso mi sono ricordato dove ce l'ha e non te lo dico. Va bene, comunque. Pregata. Antonello, ti sei addormentato, Pomponio, aiù. No, Antonello ha gettato la... Come si dice? Ha gettato la spugna. Vai, capito. Antonello ha aperto una lattina di birra, no? Però l'ha aperta al contrario. E il... come si dice? Il coso, il perno di quando apre la lattina l'ha preso a testa e l'ha addormentato. Beh. Si è goduto la birra, ha dormito. Ed è caduto anche dalla sedia, perché a non rialzarsi vuol dire che è successo così. Io. Va bene. Ragazzi, le radio sono belle, la 27 è bello tutto. Comunque c'è da dire una cosa, che è solo qua che succede, che non c'è nessuno, che è una frequenza un po' isolata. Parlo del nord Sardegna, zona nostra, perché nel Cagliaritano, se voi adesso andate su Kiwi SDR e vi fate un ascolto, ci saranno più di 70 stazioni che stanno trasmettendo in 27 MHz sul 34, vi dico anche il canale, sul 34. Poi non parliamo nella penisola. Io ti giro delle chat da cui faccio parte, su 27.225 in questo momento ci saranno 150 stazioni tra partire da Palermo al Trentino, 150 stazioni. QSO, non parliamo di stazioni, è solo qua, nord Sardegna, ma se superiamo Macomer, ti mette la mano in testa, di cosa c'è di gente, e di lì ti viene voglia, veramente di comprare, il radio, fare delle prove magari travvicinati, per esempio, fare delle prove, poi magari l'amplificatore, di lì hanno tutti amplificatori, un po' grossi anche, per comunicare, Selargius con Carbonia, Orizzano con Nurallao, diciamo che, ma rimangono anche fino a tardi, fine settimana, fino alle 2, alle 3 io l'ascolto, io li sento su KUSDR, poi se avete qualche cosa, internet credo che ce l'avete anche nel telefono, quindi andate a ascoltare i punti che ci sono di Kiwi e vedete un po' cosa Vito dice. È solo qua che noi ci facciamo sì, noi QSO tranquilli e niente di che. Ma di lì devi fare proprio la ruota, anche arrivare il tuo turno passano quelle 10-15 minuti. No, io ho capito, vorrei chiedere un'informazione tecnica, se possibile, perché ho un problema. Io adesso ho messo Kiwi, come hai detto tu, però ti posso far sentire cosa sento io, guarda. Questa è la radio. La senti? Quella è Radio Maria. No, non è Radio Maria. Cioè dal PC. Io non so come togliere questo cacchio di musica, perché mi voglio ascoltare una musica, non posso perché c'è lei. Domani mattina devi uscire. No, io sono a casa. Domani sono a casa, ma non è sempre che ce l'ho. Nel senso che adesso ce l'ho, domani mattina magari può anche essere che non sento niente. Vabbè, allora io domani mattina intanto devo andare a prendere della carne. Ci troviamo da Graziella, magari mi raggiungi e ti do un apparecchio. Ti do un analizzatore di frequenza. Fa da 0 a 1200. Tu quando senti questa cosa qua l'accendi e vedi da che frequenza sta arrivando. Capito? E poi in base quando è lì, perché intanto lui ti dice per esempio 550 appunto balle, poi va, giusto per dirti così, no? Come potrebbe essere 136, come potrebbe essere, ma la più sicura è intorno ai 87-86, con la frequenza lì. 90, 91, 91, cioè roba FM civile. Io domani te lo do, tu lo attacchi all'alimentatore e lo tieni vicino alla finestra, oppure lo prendi e lo attacchi e lo tieni vicino alla finestra e vedi che frequenza ti domina quando c'è questa musica, o domani o dopodomani o tra un mese. Tu lo prendi, lui lo ha sempre acceso, e quando senti questa musichetta qua tu prendi e mi dici vabbè, mica sta arrivando questa cosa, e poi vediamo un po' cosa fare. No, aspetta, ti blocco perché tanto non saprei come secondi e mezzo. Vieni direttamente a casa, se ti fa piacere lo colleghi tu e mi dici come funziona e poi ne parleremo. Ma quel mezzo che frega. Dai, non rompere le scatole. Sì. Dai, sì, te lo porto, così ti risolvi questa cosa qua. Tu pensa che io in base con quello lì ho capito cosa vi turbava qua a casa e mi ha rilevato quale frequenza andava a rompermi le scatole. non c'è niente da fare, tu devi solo accendere e mettere sulla finestra e basta, non devi impostare nulla, devi solo prendere, lui c'ha la sua antenna, lo metti sulla finestra, boom, finito. Anche dentro casa, però sulla finestra hai più riscontro di qualche dB in ricezione, tu lo accendi e boom, finito, l'attacco e carica batterie, basta, non devi fare altro. Comunque domani mattina me lo metto in macchina, come sto uscendo ti chiamo. Guarda, io adesso sto ascoltando in 9660, adesso va bene, guarda cosa sento, perché c'è una traccia, vedo la traccia, quindi stanno modulando. Senti cosa sento. Aspetta, adesso ho finito di... vediamo se sento qualche altra cosa. Cacchio. No, non sento niente adesso. Non c'è niente. Ascolta, dove ce l'hai? In? Ce l'ho in... aspetta che passo il volume. In SDR, in Kiwi. Però... aspetta. Un attimino, in 1953 non c'è niente, in 10 MHz, vediamo cosa c'è, nulla, adesso non c'è niente, appena detto l'ho. Sì, però tu su che ponte sei entrato? Ho messo SDR, sì, aspetta, stava parlando, porca miseria. Ma quella è una broadcasting, Letti, non c'entra niente. Sono che ti dico, io sono su RDS e sento queste cose qua, ma in qualsiasi punto, aspetta che abbasso, se io per dire vado su Facebook, adesso ti faccio una cosa stupida. Esco da qua, vado su Facebook e... che ne so, vediamo un attimino, aspetta, se trovo qualche cosa di... aspetta. I campionati mondiali di trading. Occupandomi anche di formazione, cioè, mi sono accorto che molti miei studenti... E questo vorrebbe essere una canzone. Cioè in pratica tu entri su Facebook e questa cosa qua ti domina sulla frequenza su internet. Eh sì, adesso per dire non c'è un cavolo, adesso io alzo il volume e non c'è niente. Quindi posso scorrere tranquillamente, cercare le cose che mi interessano, per dire se trovo musica, qua per dire c'è musica, e me la dà. Ok, adesso la abbasso e me la dà. Ma perché me la dà? Perché non c'è in trasmissione quello che io sento, se no quello lì lo annulla. Ok, tu fai una cosa, adesso nell'altra radio dove teniamo noi il monitor metti 156.800, no? Però devi andare in trasmissione dove andiamo noi. Tu se schiacci la trasmissione, se tu vai a parlare con me e hai memorizzato 156.800, vedi se hai la stessa musica. Adesso è partita nuovamente, aspetta un attimino, così lo sento. No, non c'è niente. Tu sei andato in 156.800, però non devi trasmettere lì, perché quella è la banda marina. Tu devi andare nella seconda in ricezione, come quando vai in ascolto, nell'altra banda, però torna dove ci sentiamo noi e schiaccia la portante. Io ti dovrei sentire qua e ti dovresti copiare dalla musica. Guarda se è la stessa. No, Gabi, io sono 156.800, ok, e poi ho anche la frequenza dove siamo noi, però non sento niente in 156.800. lo senti solo se va importante, dovresti sentirlo solo se va importante, no? Se va importante, e però con un altro ricevitore lo senti. Allora, dove siamo? Tu vai su 156-800, lo metti in ricezione, poi vai dove siamo noi, schiacci la portante e in un altro ricevitore, sempre messo a 156-800, dovresti sentire se la musica è uguale a quella che ti sta arrivando nel computer. Non mi hai capito? Aspetta un attimino, che ho sbagliato una cosa. Aspetta. Cavolo, sì. Aspetta. Perché? Aspetta. Un locale. Sembra un locale, aspetta. Giro il mic, giusto per farti sentire. Aspetta, alto volume. Aspetta, dall'altra parte. Ah, lo senti? Caspita, porca miseria, la seconda si può trovare questa cosa qua. Con quell'affare che io ho registrato. Cioè, a me mi rompo le scatole, perché sinceramente non posso mettere nulla nel PC che sento a loro. Io devo chiamare a Capitan Ventosa. No, non c'è bisogno di chiamare Capitan Ventosa. Già si trova. In maniera, in modo, vera. Ciao Antonio, ciao, dai, mi sto coricando.